Sono folle di te, amore, che vieni a rintracciare nei miei trascorsi. Tutto interessa un poco per brevissimo tempo. Ogni cosa muore. Ricordo il mio futuro come un incubo. Non so prefigurarmi il mio passato. Memorabile! 10 anni di ad alta voce. Il 9 ottobre a Venezia, il 15 a Cesena e il 16 a Bologna. Voci che leggono, città che ascoltano. Da Coppa Adriatica e Ausilio per la Cultura.